Buonasera e benvenute e bentornati a questa prima puntata del 2017. Non l'ho ancora mai detto, forse a voce alta, questo numero 2017 riprende Mike FM, ce la siamo presi un po' comoda, ma causa influenza soprattutto, e quindi abbiamo un po' rimandato la prima puntata del 2017 di Mike FM, ottava stagione. Claudia Mautti, Mikey Mau, presso il TPO di via Casarini a Bologna, www.radiokairos.it, 105.85 su Bologna. Ripetiamo, perché magari da un anno a un altro la gente si scorda, e siamo qui però comunque in tempo utile, perché tra un mese e un giorno, ovvero 30 giorni, perché gennaio, come dice il proverbio, ne ha 31, siamo qui per parlare di una cantautrice, musicista americana di origini giapponesi, per metà giapponese, di cui abbiamo già parlato nella puntata dedicata alle migliori canzoni dell'anno. Perché? Perché il suo disco e soprattutto una canzone in essa contenuta sono state, diciamo, premiate dalla critica specializzata con altissimi voti e molto molto apprezzamento. E siccome, come dicevo, tra 30 giorni ce la troveremo, unica data italiana, sul palco del Covo Club il 24 febbraio, abbiamo deciso di dedicare una puntata a lei, Mitsuki Miyawaki, nata in Giappone, l'abbiamo detto, madre giapponese e padre statunitense, nel 1990, che ha pubblicato due album in forma fisica. Ho scoperto i primi due, in realtà sono stati solo pubblicati in digitale, credo, come, diciamo, nell'ambito del suo curriculum, del suo lavoro di studio presso il college che ha frequentato. Come dicevo, ne abbiamo già parlato largamente nella trasmissione dedicata alle migliori canzoni dell'anno, nominando appunto come l'album che conteneva la canzone in questione, che era Your Best American Girl, fosse stato veramente incensato dalla critica, arrivando ad ottenere delle posizioni molto molto lusinghiere nell'ambito delle classifiche di fine anno dei media specializzati, e quella generale, che fa la media tra tutte quante, la pone addirittura al 14° posto, veramente davanti a tanti altri nomi molto più conosciuti da più tempo, e soprattutto davanti a lei ci sono, insomma, dei mostri sacri che forse era difficile superare. Ma come facciamo sempre qui a Mike FM, partiamo con il pezzo di apertura dell'album, si chiama Happy, è uno dei pezzi più discussi quando si parla nelle recensioni o nelle interviste o negli articoli su Mitsuki, e che, come ho avuto modo di confrontarmi con Olivia, anche con altre persone, e che è un po' incontestabile, diciamo che questo pezzo è come se fosse un po' preso da una blueprint di una canzone di St. Vincent, soprattutto Rattlesnakes, ma anche c'è qualcosa di Digital Set, Witness, c'è qualcosa di Birth in Reverse. Ok, St. Mitsuki. We'll be right back. Happy è venuto a trovarmi, ha portato dei biscotti, gli ho fatto del tè, gli ho detto che avrei fatto di tutto per farlo rimanere con me, allora lui mi ha fatto stendere, ho sentito Happy venire dentro di me e il tempo che sono andato in bagno a lavarmi torno e Happy non c'è più. Questo insomma è il tono un po' crudo e diretto di questo pezzo che tutti l'hanno definito come sì, il racconto di una storia, insomma un incontro finito un po' così, però ecco questo uomo chiamato Happy, mentre io la leggo proprio come una metafora. Come dice lei nel suo Bandcamp, Romitsky dice happiness fucks you, cioè la felicità ti fotte, arriva, ti fa venire, ti fa stare bene e poi comunque cioè, ti abbandona senza neanche salutare. E il suo commento un po' rassegnato è ecco adesso come al solito mi tocca pulire. Ma come dicevamo prima, come abbiamo detto anche in un'altra trasmissione, Mitski ha viaggiato molto fino alla prima adolescenza, per il lavoro del padre ha vissuto in una decina di paesi diversi, Cina, Turchia, Congo, Malesia, fino a trasferirsi negli Stati Uniti a 15 anni e poi ha cominciato a frequentare, all'età giusta, il SUNY College a Purchase, una località a nord di New York, dove appunto nell'ambito del suo corso di studi, è un college molto rinomato per gli studi liberali, musicali, di teatro, di cinema, eccetera, ha prodotto un primo lavoro nel 2012 dal titolo Lush. Stiamo ascoltando un piccolo mix di quattro pezzi, questo primo è Liquid Smooth. Come touch me too, I'm at my highest peak, I'm ripe, about to fall, capture me. Or at least take my picture. 'Cause what did they use money? I'm pulsing, my blood is red and unafraid of living. Real men don't need other people, and real men suck it in. Liquid Smooth, il secondo pezzo era Real Man, da questa andatura un po' la Tori Amos, direi, nella mia ignoranza di Tori Amos. Erano tre i pezzi, questo ultimo è Wife. Questo tutto però. I cannot bear you a son, but I will try. For if I am not yours, what am I? I daydream I'd give one a name of my own. For I am alone. I have, I have, I want. from my cliff I'm looking down from. I cannot bear you a sign. I have tried, but if I am not yours, what am I? I daydream I'd give. Questo è Wife, il terzo pezzo che abbiamo scelto da Lush. Come ho detto già, ma tanto l'avranno sentito in due, questo fatto di essere sempre, insomma, sradicata l'ha fatta sempre sentire un outsider, non ha mai fatto in tempo, insomma, ad ambientarsi, sempre sradicata, però sono sempre con questa idea forte di un'identità americana. Io sono americana, quindi un'americanità ideale, che poi, insomma, l'ha molto delusa poi la prova dei fatti quando finalmente è andata a vivere negli Stati Uniti, perché comunque era sempre fuori posto. Quindi, appunto, definirla giapponese, c'è qualche media, qualcuno che lo fa, mi sembra veramente fuori luogo. E in questa trasmissione non solo abbiamo pensato di dare visibilità a tutta la produzione di Mitski, e ascolteremo tutto l'album, perché al dono della brevità, dai 23 minuti dei primi lavori siamo arrivati ai 29:31 in quest'ultimo album, e mi sa che non ho ancora neanche detto il titolo dello splendido album che ascolteremo oggi. Si chiama Puberty 2, ovvero una seconda pubertà, una seconda adolescenza. Ne parleremo molto nei prossimi minuti, mezz'ore e ore, ma come ho scritto anche nella presentazione della puntata, anche un po' una celebrazione delle femmine che suonano, delle femmine che si mettono a nudo e che spesso fanno anche abbastanza casino con la chitarra. Forse sonicamente non ci sono somiglianze così ravvicinate, ma comunque c'è una comunione di generazione, questa nuova generazione di femmine americane che suonano, e una delle quali è la nostra cara, ormai vecchissima conoscenza, Sharon Van Etten, di cui ascoltiamo I Always Fall Apart, tratto da uno dei suoi ultimi lavori, ormai del 2015, l'EP I Don't Want to Let You Down. You turn me into a museum. You kept me from the growing weeds. When all you wanted was the best for me, it is the test. Can you keep me from, you can't explain me. You know it's always been my heart. You know I always fall apart. It's not my fault, it's just my flaw. It's who I am. E finisce Sharon Van Etten e continuiamo, come ho detto, ascolteremo tutto il disco Puberty 2 di Mitski con un altro pezzo, Dan the Dancer. Che per il mio mautismo nel cantato mi ricorda un po' i primissimi Smiths. Oh, Ecco, questi passaggi anche vocali, questo fraseggio vocale mi ricorda molto gli Smiths, come in altri casi mi ricorda proprio l'attitudine di Morrissey, nel senso la spietatezza, perché i testi sono importantissimi ed è dei testi che soprattutto si parla nelle recensioni, negli articoli relativi a Minsky, ovvero la spietatezza con cui si confessa, si mette a nudo, quasi in modo appunto sfrontato, tutte le proprie miserie, le proprie debolezze, i propri difetti, i propri pensieri veramente sconvenienti, eccetera, con la stessa spietatezza con cui poi comunque le cose non si vengono mandate a dire, nel senso vengono anche dette agli altri in modo abbastanza crudele. Ma ecco che finisce Dan the Dancer. E come dicevo, abbiamo voluto dare un po' visibilità a tante giovani ragazze che fanno musica, una delle quali, anche lei l'abbiamo sentita nella trasmissione dedicata ai migliori pezzi del 2016, è Frankie Cosmos, ovvero Greta Klein. Lo ripeto sempre perché mi piace troppo, la figlia di Kevin Klein e di... Oddio, adesso c'ho un lapsus. La cantante di Paradise, la canzone di Laguna Blu, Phoebe Cates. Avevamo fatto sentire per il Best Of del 2016 una canzone tratta dal suo ultimo album del 2016, Next Thing. La canzone era On the Lips, questo invece è Is It Possible / Sleep Song. Diciamocelo, un po' tutte queste canzoni che ho scelto oggi e che sono contemporanee pescano comunque nell'ambito dell'indie rock o dell'alternative rock, anche con dei suoni chitarrosi che erano classici dei primi anni 90. Infatti le mie orecchie sentono tantissimo i Pixies, e lo sentirete anche voi in vari pezzi di Puberty 2 di Minsky, ma poi a un certo punto hanno nominato un altro gruppo dei primi anni 90, ho detto ah sì, è vero, e infatti poi in fin di trasmissione ascolteremo un pezzo di questa band dei primi anni 90 che adesso non nomino perché stiamo ascoltando Frankie Cosmos. Ma dobbiamo parlare di Minsky. Miwazaki, classe 1990, frequenta appunto il SUNY College, molto apprezzato, dicevo, per i suoi corsi design, danza, teatro, cinema, eccetera. Raffinando una tecnica compositiva e una musicianship che non è solo saper comporre, ma secondo me appunto anche saper suonare uno strumento, perché comunque anche se si sente Saint Vincent, si sentono i Pixies e altre cose, non è per sminuire il lavoro di Minsky, perché per esempio io quello che fa lei di suonare e fare i dischi io mica lo so fare. Per esempio questa canzone così un po' retro, forse appunto l'influenza della musica ascoltata crescendo con la collezione dei dischi dei genitori, un po' retro eccetera, mi fa ricordare la ripresa di questo suono, di questo stile, per esempio da Anna Calvi, o di un omaggio ai gruppi femminili degli anni 60 che anche lì esprimevano sempre questi aneliti d'amore, questo desiderio, perché la cifra dei testi, dei contenuti dei testi di Minsky è sempre questo fatto di non appartenere, non sentirsi al proprio posto, non sentirsi apprezzata, doversi sforzare per andar bene, per mischiarsi agli altri e morire dietro appunto degli amori impossibili. E questa è Once More to See You, sempre tratta dal bellissimo Puberty 2, che ci presenterà sul palco del Covo il 24 febbraio prossimo. Mitski. È uscito il 17 giugno scorso e tu dici: perché ne parli adesso? Perché te lo sei perso? Perché appunto, se un disco esce il 17 giugno, noi siamo già proiettati nei festival estivi, la stagione finisce, non si leggono più spesso le recensioni, ce lo siamo persi. Però appunto, sapendo che, vabbè, a parte l'abbiamo ascoltato anche grazie alla pressione di Olivia che mi diceva: ascolta Minsky, grazie sempre, ma anche appunto in prospettiva della data, noi siamo tutti cariche in attesa di questo concerto e speriamo appunto di motivare molte persone ad andare il Covo il 24 febbraio prossimo. 15 euro, già se volete le prevendite potete andare a Jukebox in via Mentana e comprare il biglietto a 15 euro. E appunto per dare riconoscimento ad un altro dei nomi che suoneranno anche al Covo il 31 maggio, ma noi la vedremo al Primavera di Porto, quindi ne parleremo ancora, ne abbiamo già parlato perché il suo disco My Woman e soprattutto il pezzo Shut Up and Kiss Me è stato molto lodato e anche esso nei primi posti, l'album delle classifiche di fine anno di tutti i media specializzati. Non potevamo non sentire anche Angelina Olsen e abbiamo scelto due pezzi, uno un po' per dare come riferimento ai pezzi più calmi e più riflessivi e più anche un po' retro di Mitski, e l'altro invece un po' più mosso, perché Angel Olsen contiene tutti e due gli stili. Ovviamente questa è Intern, che sarà poi seguita da Give It Up. The phone, but I swear it's the last time. comunque anche in un passaggio come questo sento anche un po' di Pixies anche in questo pezzo. Ma tornando a Mitski, perché di lei che stiamo parlando, nel prosieguo della sua carriera al college universitario ha prodotto un altro album, e la caratteristica di questi album è che c'è un'orchestrazione un po' più classica, ci sono strumenti più classici come gli archi e il pianoforte, ma da un disco a un altro, da Lush a quello successivo, ci sono insomma dei passi avanti. E adesso da quell'album Retired from Sad, New Career in Business del 2013, e voglio dire, se non è St. Vincent questa, perché Strange Mercy era già uscito. Ci ascoltiamo un altro mix di pezzi. Goodbye My Danish Sweetheart è questo, il primo. Study a blank wall. Would you spare me your voice if I call? 'Cause you waited and watered my heart till it grew. You just grew a little smarter too. So I don't blame you if you want to bury me in your memory. I'm not the girl I ought to be, but maybe when you tell your friends, you can tell them what you saw in me. I love you. When you stood up, walked away barefoot, and the grass where you lay left a bed in your shape. I looked over it and I ached. Questa Strawberry Blonde è appunto uno degli altri registri di Mischi. C'è questo tendenza all'autocontrollo anche per l'educazione data dalla madre, quindi giapponese, quindi molto composta, di non mostrare i propri sentimenti, e invece poi ci sono dei momenti in cui tutto ciò salta, è anche molto presente in Puberty 2, e quindi l'autocontrollo salta, ci sono questi momenti di follia in cui vuoi solo urlare la tua felicità o il tuo desiderio o la tua rabbia eccetera eccetera, e tutto salta. E questo Strawberry Blonde infatti è uno dei tanti amori non corrisposti cui lei muore d'amore per questo ragazzo biondo, quindi americano probabilmente, cui dice: volevo semplicemente una vita fatta come te, nella tua forma, fatta a tua forma. E che in questo poi tripudio di strumenti, di questo crescendo e di queste voci corali che tra un po' arriveranno, mi hanno ricordato moltissimo Suzanne Stevenson. Questo pezzo invece si chiama Humpty, e lui dice: voglio vivere dentro questa vasca circondata da piastrelle, tutto così ordinato, così pulito. C'è sempre questa dicotomia tra il desiderio proprio dell'esplosione, anche dell'implosione, e questo desiderio invece di calma, di tranquillità, ma anche la frustrazione anche di volere più di quello che si riesce ad avere, e quindi volersi accontentare alla fine, e lo dice un pezzo di Puberty 2, per cose più ordinarie, perché alla fine questo volere quello che non riesce ad ottenere ti lascia esausta. Questo pezzo si chiama Humpty, ho trovato un riferimento appunto a Humpty Dumpty, il personaggio dietro The Looking Glass di Alice nel Paese delle Meraviglie, che a forma di uovo sta seduto su un muretto e nella cultura, nelle citazioni, nelle canzoni, nei racconti eccetera è molto molto presente, perché infatti lei dice: fatto il danno, non ce la faccio più a raccogliere le uova che ormai si sono rotte per terra, i gusci d'uova, quindi Humpty Dumpty non si può più raccogliere. Questo sembrerebbe lo stesso pezzo, e invece no, merito del nostro bellissimo mixaggio, è un altro pezzo struggente di Retired from Set New Career in Business nel 2013, Circle. And the businessmen saw my bones. With my skirt in their eyes, they remembered the nights when they were that man you knew. You told me once you were happy to have me, but I never gave me away. There's a lie that I told you. E finisce questo mix del secondo lavoro di Mitski, e come altro contributo, forse fuori luogo si potrebbe pensare, perché i toni sono sempre molto più calmi, la strumentazione molto semplice tendenzialmente di voce e chitarra, ma ripeto, ho voluto mettere più giovani musiciste possibili. Anche questo compete alla versione più confidenziale, più confessionale anche della produzione di Mitski, di queste giovani ragazze che si mettono a nudo davanti a un microfono, è una delle quali è una delle ultime arrivate, soprattutto grazie al grande endorsement di Sharon Van Etten, si è fatta conoscere, è la giovanissima Julian Baker, ha fatto un album nel 2016, si chiama Sprained Ankle, tipo caviglia distorta, questo è il pezzo omonimo, Sprained Ankle, e anche lei la vedremo al Primavera Porto e quindi anche a Barcellona. Anche questo delicatissimo pezzo di Julian Baker, Sprained Ankle, e continuiamo con l'ascolto di Puberty 2 di Mitski, che dopo l'album precedente, cui parleremo tra poco, descriveva proprio l'adolescenza, il periodo in cui puoi finalmente fare quello che vuoi, quindi hai la pazza gioia, esci con gli amici, le corse in macchina, fai tardi, bevi, stai male, eccetera eccetera. L'album successivo, Puberty 2, sembra appunto una pubertà ripetuta, una ripetizione degli stessi traumi, gli alti e i bassi, le euforie, le tragedie, i picchi euforici, le vallate disperate della pubertà, dell'adolescenza, dovute anche al fatto che per un periodo all'uscita del disco, almeno fino all'anno scorso, Mitski era tornata a vivere con i genitori. e come succede spesso quando si torna a casa, è come se si facesse un salto indietro nel tempo, che tutto quello che hai conquistato, tutto quello che sei diventato sparisce e ti ritrovi nelle stesse dinamiche. Quindi da New York, dove si erano stabiliti quando lei era adolescente, adesso i genitori abitano nella provincia della Pennsylvania, a mezz'ora da Filadelfia, e lei anche ci è andata a vivere perché preferisce, insomma, un po' la tranquillità, perché riesce più a concentrarsi anche sul suo lavoro. Questa è la bellissima Fireworks, che infatti inizia, ecco qui, anche qui c'è un po' di Pixies. Tipo il passaggio di Veluria. Dicevo, la prima frase di questo pezzo è proprio esemplificativa di questo modo di scrivere di Mitski, del parlare della tristezza, della cantare la tristezza e del rivendicare il diritto alla tristezza, e il diritto anche ad essere un po' fuori di testa, ad essere fatti male, ad essere danneggiate, come dice anche in un'intervista, la libertà di essere fucked up. E il primo pezzo, il primo verso di questo pezzo infatti dice: un giorno questa tristezza si fossilizzerà e io mi dimenticherò come piangere, andrò a lavorare, sarà tutto più tranquillo, nel senso il dolore rimane come cicatrice indelebile, ma con il tempo, insomma, un po' si ammorbidisce e il dolore passa un po'. Ovviamente qui a Might FM parliamo sempre sopra le canzoni, perché sono appunto solo dei suggerimenti, delle indicazioni, perché speriamo che chi ascolti si appassioni all'artista in questione e poi nella sua cameretta si ascolti i pezzi. E io, grazie appunto alla ricerca delle trasmissioni, scopro sempre musica nuova, anche i nomi che mi vengono nominati da amici e parenti. Per esempio questa è Lucy Dacus, non so come si pronuncia il suo nome. Questo pezzo si chiama I Don't Wanna Be Funny Anymore, anche nel titolo mi sembra una bella citazione anche degli Smiths, tratto dal suo album del 2016 No Burden, Lucy Dacus. I heard my friends saying things I don't mean out loud. Molto questo recupero dell'indie quando era indie, dell'alternative rock, dell'indie, anche dei suoni degli anni 90, anche qui si sente un po' di alt rock americano classico, è anche un po' come in parte l'ha ripreso di base St. Vincent, cui poi appunto ha fatto le sue meravigliose sperimentazioni, e non vediamo l'ora di sentire il prossimo disco. Questo è Lucy Dacus di Mechanicsville, Richmond. Ci sono molti artisti di cui abbiamo parlato qui a Might FM che vengono dalla Virginia. Questo pezzo che stiamo ascoltando, I Don't Wanna Be Funny Anymore, è stato il suo primo singolo del novembre del 2015. E l'ha portato fortuna perché ha subito firmato per la Matador Records. E invece noi non abbiamo detto, cioè abbiamo citato en passant, che questo disco, e adesso appunto sentiamo il pezzone singolo video, andatevi a vedere il video di questo pezzo che inizia appunto molto molto alla Pixies, cioè questa sempre questa dinamica dei pezzi che iniziano molto in modo molto quieto con un'esplosione catartica appunto questa sapiente manipolazione. Ho letto in una recensione prototipica dei Pixies, è anche una cosa che ritorna in tanti pezzi di Mitski. Dicevo, questo album è uscito per la Dead Oceans, praticamente è un'etichetta sorella, label sorella della Jaguar, quindi di Sharon eccetera, e della Secretly Canadian. È un'etichetta che vede nel suo roster, come si dice, The Place to Bury Strangers, Juliana Barwick, Destroyer, Califone, Dirty Projectors, Kevin Morby, Dallas Man on Earth. Quindi insomma è entrata in una bella famiglia musicale dopo appunto i suoi due primi lavori al college. Un terzo lavoro di cui parleremo tra poco, che ha fatto drizzare le orecchie e le antenne, l'ha fatta insomma apparire sul radar dei media specializzati. Ma questo è Your Best American Girl. Andatevi a vedere il video, ne abbiamo già parlato, è assolutamente imperdibile. Il tema principale appunto è sempre quella della distanza, differenza culturale, ma è anche appunto una rivendica con orgoglio la sua appartenenza culturale e l'autoaccettazione insomma anche di un tipo di educazione che pensava che l'avesse svantaggiata, cioè quella appunto forse più rigida di sua madre nei confronti invece dell'appetibilità nei confronti di un potenziale fidanzato americano. Dice: per quanto mi sforzi non posso essere la tua ragazza americana, perché tu sei troppo americano e quindi a me preferirai sempre una della tua specie, volendo usare termini impropri anche un po' troppo forti. E infatti il ritornello dice: tua madre non approverebbe mai il modo in cui mia madre mi ha allevato, ma io finalmente lo accetto. È il video di cui abbiamo parlato, perché era questa la best song, una delle best song del 2016 per Pitchfork e anche per noi. Lei cerca insomma di attirare l'attenzione di questo ragazzone che poi alla fine se la fa con un'altra ragazza, diciamo caucasica, e la definizione della scheda di Pitchfork diceva sembravano uscite dalla VIP tent di Coachella, e alla fine lei trova una relazione molto più appagata con la sua mano. È molto molto bello, divertente. E un altro dei gruppi che ho scoperto facendo ricerca per questa trasmissione è questo Cherry Glazer con la doppia R. Questo pezzo è un singolo del 2014, si chiama At $10. Gruppo capitanato da Clementine Creevy, che soprattutto nell'ultimo singolo e l'ultimo disco ricorda tantissimo la prima Cat Power. Gruppo di Los Angeles, ha fatto un album Axel Princess nel 2014 e poi ne ha fatto uno quest'anno che si chiama Apocalyptic. We'll be right back. Sherry Glazer, soprattutto in un pezzo contenuto nell'ultimo Apocalyptic uscito il 20 gennaio, sembra tantissimo la giovane Cat Power. Il pezzo era Told You I'd Be With The Guys, andatevelo ad ascoltare. Finisce anche Hat and Dollars di Cherry Glazer, che abbiamo voluto mettere in questa trasmissione dedicata, insomma, a questa giovane generazione di musicisti americani che in gran parte recuperano un po' il suono dell'alt rock, indie rock dei primi anni 90, ma siamo arrivati appunto all'album che l'ha fatta conoscere alla critica. Si chiama Bury Me at Makeout Creek, è una divertentissima citazione di una scena dei Simpson in cui Milhouse muore tra le braccia di Bart. E fa questa richiesta, Bury Me at Makeout Creek. Il primo pezzo che stiamo ascoltando di questo mix di tre pezzi è First Love Late Spring. Anche questo passaggio era esattamente Wave of Mutilation dei Pixies, ma ci piace tantissimo. Questo secondo pezzo è Francis Forever, per questo disco che lei ha composto quando ha finito la scuola, torna a Brooklyn e nel 2014 esce con la produzione di Patrick Hyland, che ritorna anche come produttore in Puberty 2. Il primo pezzo d'apertura, sempre questo andamento, questa dinamica di quiete e poi esplosione, Texas Reznikov, che non abbiamo messo in questo mix ma è molto bello. E questo terzo pezzo che abbiamo voluto mettere è Jobless Monday. So take me out, baby. e comincia anche un po' a sperimentare con i suoni. Per esempio c'è questa tastiera che sembra un misto tra un fiato e un kazoo. E Jobless Monday è il terzo pezzo che abbiamo scelto per questo disco, Bury Me at Makeout Creek, e appunto l'ha fatta conoscere dalla critica specializzata e ha creato insomma delle aspettative che sono state assolutamente confermate con Puberty 2, per il quale si è preso un po' più di tempo. Nell'ambito del corso di studio ha fatto un disco dietro un altro, e anche questo è uscito l'anno successivo a quello precedente. Invece si è preso un po' più di tempo per far uscire Puberty 2 ed è stato veramente un successo. E poi tra poco leggeremo un po' i nostri appunti relativi alla critica specializzata, alle tante recensioni, tutte esclusivamente positive. Il voto più basso è il 7, e quello più alto è il 10. E questo è un altro pezzo, il pezzo centrale dell'album, I Bet on Losing Dogs. Qualcuno l'ha definito il capolavoro misconosciuto, insomma non riconosciuto di questo disco, e forse anche per me il mio pezzo preferito. Mi viene in mente quando mi metto a dormire la sera. Anche questo ha una dolenza tutta mosderiana, lo scommettere sui perdenti, guardarli negli occhi quando cadono a terra stremati. E perché, per quanto sia personale questo disco e parli delle sue esperienze, della sua visione del mondo eccetera, quello che dicono anche molte recensioni è che c'è questa empatia che lo rende relatable, nel senso tutti noi possiamo partecipare di queste emozioni dell'animo umano, di cui Mitski è una profonda e brava osservatrice. I Bet on Losing Dogs. Qui insomma un po' il passaggio vocale molto Annina Clark. E tanto Morris, ripeto. E termina questa bellissima Bury Me at Losing Dogs. E per parlare del prossimo pezzo, della prossima band, parliamo anche insomma della simpatia e dell'empatia di Mitski per la popolazione queer americana. Anzi, diciamo che lei stessa comunque può essere definita queer, perché è bella stranetta. Perché parliamo di questa band americana, guidata da una ragazza, una band queer, si chiamano Adult Mom. Lei si chiama Steph Knipe e l'abbiamo messa perché i suoni sono sempre quelli, insomma la palette di riferimento che abbiamo deciso di impostare oggi. Ma perché è un disco nuovo, è del 2016 credo, anche questo. Sì, Momentary Lapse of Happily, anche qui c'è abbastanza humor, come non manca l'umorismo, l'umor nero appunto nel titolo degli album. Abbiamo detto la citazione dei Simpson, dicevo, da parte di Mitski, e anche questo Puberty 2 sembrerebbe un film tipo American Pie. dicevo, questo gruppo Adult Mom, questo pezzo si chiama Survival, tratto da Momentary Lapse of Happily del 2016. La popolazione queer, perché? Perché nell'aftermath, ovvero nei momenti successivi di confusione eccetera e anche di incredulità seguiti alla elezione americana che ha visto la vittoria di Donald Trump, Mitski ha cominciato a scrivere tweet a raffica dicendo: se vi sentite insicuri, se avete paura, se vi sentite in pericolo, tutti voi queer, miei fan o comunque gente queer dei paesi, delle cittadine dove io sto suonando questi giorni, vi metto in lista, venite alla mia serata, al mio concerto e tanti sarete al sicuro. Quindi che lei ha mostrato molta empatia e forse una nota di allarmismo un po' esagerata, e quindi abbiamo deciso di metterci questo pezzo di Adult Mom. E finisce Survival di Adult Mom. E chi conosce Mitski dice: ma come, non ha messo quel pezzo? Sì, perché il pezzo centrale di Bury Me at Makeout Creek è questo Townie che ci ascoltiamo separatamente ed interamente, di cui esiste anche il primo video della videografia di Mitski che abbiamo postato sulla nostra pagina Facebook, un video molto semplice di animazione. Questo è Townie, tratto sempre da Bury Me at Makeout Creek. Abbiamo detto, come se questo album descrivesse la prima libertà assaggiata dai adolescenti, tardi adolescenti che cominciano a uscire la sera o ubriacarsi, e questo pezzo che ha un po' i suoni indie rock, surf punk, sono appunto un inno a questa libertà, all'uscire, andare in macchina con i ragazzi, al bere, ad ubriacarsi, questa metafora dell'innamorarsi, dell'amore che è come un corpo che cade da un terrazzo, cose che spesso appunto succedono ai ragazzi che si imbriacano. Questo pezzo si chiama Townie e il verso principale che riassume un po' tutta la canzone è: non sarò mai come vuole papà. Quindi la classica manifestazione di ribellione adolescenziale. Questo pezzo l'abbiamo messo vicino ad un pezzo di Poverty 2, che è quello insomma un po' più agitato, anche quello che viene nominato quasi sempre nelle recensioni, ovvero My Body is Made of Crushed Little Stars, molto breve, non raggiunge 2 minuti, e anche questa appunto è la manifestazione di l'espressione di quei momenti in cui l'autocontrollo salta, tutte le tue cellule se ne vanno per conto loro e esprimi questo impazzimento, questo desiderio di voler viaggiare in tutto il mondo anche se non saprai come pagare l'affitto. Questa wanderlust, questo desiderio irrefrenabile di viaggiare e vedere il mondo, che poi lei in parte l'ha fatto quando era ragazzina, però ovviamente non aveva l'autonomia che poteva avere adesso. Quindi lei canta: voglio vedere tutto il mondo, voglio vedere il mondo intero, non so come pagherò l'affitto, ma voglio vedere tutto il mondo. E dopo questa esplosione rimane questa coda di suonini elettronici e anche appunto l'aumento della palette sonora anche nell'uso di un'elettronica, però sempre in modo abbastanza controllato e delicato. E ci abbiamo appunto voluto mettere un'altra musicista, una cantante giovane del sud degli Stati Uniti, Torres. Abbiamo già messo un suo pezzo, Sprinter, nella trasmissione dedicata a Daughter. Questo pezzo è Cowboy Guilt e ci diceva per noi, per questo appunto suono un po' la drum machine, come spesso ritorna nei pezzi di questo album di Mitski, soprattutto nell'inizio di Happy. Cowboy Guilt, Torres. Torres. Modo in cui è finito My Body is Made of Crushed Little Stars, questa piccola coda di suonini, Cowboy Guilt, Torres, tratto da Sprinter. Molto politico anche questo pezzo, detto che nomina George W, nomina il sud degli Stati Uniti. Ma torniamo a Poverty 2, tra poco leggerò le mie pazze note, studio matte disperatissimo sempre per queste trasmissioni. Un disco anche sull'autoaccettazione. Infatti questo pezzo bellissimo, Thursday Girl, parte quasi con un, come se fosse un inno religioso, gloria, gloria, gloria alla notte in cui ho capito. Somebody please, stesse note, le stesse parole di Morrissey ancora con gli Smiths, tipo please please please let me get what I want. Cosa sono? E si rivolge a quest'altra persona. Sono ragazzi, ti prego, dimmi di no. Per qualcuno, per favore, mi dica di no. E insomma, un po' desiderio di sottrarsi alla tentazione, dimmi di no, così magari mi aiuta ad evitare gli stessi errori, anche se appunto questo album c'è molta autoaccettazione, nel senso che, ma come dico sempre io, insomma, anche col passare del tempo l'esperienza non è che impari tanto a non sbagliare, ma sai che sbaglierai, sai che starei male, insomma c'è sempre un po' di rassegnazione, forse questo è il cambiamento fondamentale crescendo. E finisce Thursday Girl, un altro gruppo che ho scoperto facendo la ricerca, è un altro gruppo americano, indie rock band basata a Brooklyn, anche se niente, è una cosa che ho omesso prima, ovvero che gli Adult Mum, il gruppo di cui ho parlato prima, abbiamo sentito Survival, viene proprio da Purchase, la stessa cittadina dove c'è il college frequentato da Mitski. Questo pezzo invece dei Big Thief, hanno fatto un bel disco nel 2016, si chiama Masterpiece, capolavoro. Questo pezzo si chiama Vegas, loro sono appunto di base a Brooklyn, la cantante Adrian Lenker, poi c'è un altro secondo chitarrista e altri, insomma, tre ragazzi, basso e batteria. Molto bello, soprattutto anche questo gruppo, insomma, giovane, questo album di esordio è uscito per la Saddle Creek, insomma un po' un monumento all'indie folk americano degli ultimi 15 anni. Yeah. Vegas, Big Thief, tratto da Masterpiece. Torniamo a Puberty 2 con una canzoncina un po' twee, un po' rock and roll. E anche questo, diciamo, un false friend, perché sembra una canzone tanto allegra, zumpa zumpa, invece anche qui, insomma, i temi sono sempre un po' di frustrazione, di solitudine, di tristezza. Ma come abbiamo sempre detto, questo è un disco coraggioso, perché non solo Mitski si mette a nudo, ma insomma un po' rivendica il fatto di star male, di essere una persona un po' fucked up, un po' scazzata, e questo appunto è A Loving Feeling. Cosa ci fai di un sentimento amoroso se questo sentimento d'amore ti fa sentire completamente sola? E si rivolge appunto a qualcuno, infatti la vuole solo quando si sente troppo solo. E appunto dicevo Pixies, Pixies, Pixies, ma poi vedo un paio di recensioni che mi nominano i Weezer e dico... È vero. E questo è il famoso album omonimo, il Blue Album, con cui l'abbiamo conosciuto, dove c'era Buddy Holly, ma soprattutto la mia preferita, Undone, The Sweater Song. Però due pezzi che, uno dei pezzi che veramente assomiglia un po' allo stile di Mitski di questo disco, che riprende molti suoni dell'art rock dei primi anni 90, è Only in Dreams, e siccome dura 8 minuti, noi ce la teniamo di sottofondo per leggere tutto quello che abbiamo scritto. Come si sa, noi andiamo a vedere la media della critica specializzata nel sito Metacritic, che aggrega soprattutto i voti delle recensioni e ne fa una media, e infatti Puberty 2 ha ottenuto un molto lusinghiero 8,7, 87 su 100, perché come dicevo nelle classifiche di fine anno ha avuto posizioni molto alte. The AV Club top 50 all'ottavo posto, non a caso gli ha dato 10, Paste numero 5, Pitchfork al 18, e la classifica generale al 14esimo posto, lo stesso Rolling Stones al 23esimo, ma consideriamo comunque che analizzino insomma una rosa più ampia di titoli. Stereo Gamma all'ottavo posto e Time Magazine, la rivista, nella top 10 addirittura al numero 3. Come dicevo prima, tutte recensioni super positive, la più bassa, se così si può dire, è il 7 di Rolling Stones, poi Rolling Stone, poi 13 testate gli hanno dato 8, 8 e 3, poi 8 e 3, 3, 8 e mezzo, tra cui Pitchfork 2, 9, un 9,1 e un 10. Leggiamo. Rolling Stone dice: Artie Brooklyn songwriter, mette a nudo le sue cicatrici in maniera eccezionale, un autoritratto incendiario, atteggiamento sprezzante o spericolato. Questa espressione americana, Devil May Care. Poi The Skinny cita Pinkerton invece dei Weezer come paragone, ovvero melodie catchy, insomma molto, molto anche allegre, che rimangono in testa eccetera, su delle basi un po' chitarrose, grunge, influenzate dai Pixies. Difficoltà di integrarsi quando l'essere diverso ti viene costantemente ricordato, un disco che unisce feroce e tenerezza, e il rischio di guardarsi troppo l'ombelico evitato invece da saper evocare la rabbia e i drammi dell'adolescenza, ma anche la sua sublime passione. Poi The Lines of Best Fits 8, un viaggio sfaccettato su cosa significa essere forti, dal punk carico alle ballate più delicate, dare voce con energia alla confusione, e allo sconcerto dà vitalità a tutte le emozioni che fanno un essere umano, anche le più scure, tenere e selvaggia, in parti uguali messi, rende potente. La vulnerabilità, ma soprattutto dà riconoscimento e dignità, vero, validate, ad emozioni un po' sottosopra, una colonna sonora per l'autoaccettazione e la consapevolezza, appunto. Non c'è niente di male a dire che si è infelici. Anche Uncut e Q Magazine hanno dato 8. Poi Now Magazine, ma appunto essendo sono riviste cartacee che non hanno un equivalente online da poter leggere. Poi Now Magazine di Toronto, nei 2 anni da Bury Me a Maple Creek, Mischi ha aggiunto consistenza al suo suono e complessità ai suoi testi. Puberty 2 è pieno di isolamento, ansia e perdita, con al centro l'idea che la felicità si trasforma in tristezza e disperazione, che appunto happy, happiness fucks you, ti frega, è solo un momento passeggero, non si può, e magari appunto quando sei adolescente pensi che magari, ecco, arrivata la felicità dura per sempre, invece no, e poi cadi col culo per terra. Ma sebbene canti il dolore, tutto culmina nell'autoaccettazione. The Guardian 8, folk confessionale, ovvero confidenziale alla Bright Eyes, Riot Girl e dinamiche alla Pixies, appunto questa alternanza quiet loud, più una certa stranezza alla St. Vincent, delicata sperimentazione, sensibilità melodica e poi molta arguzia, sagacia, appunto umor nero. Boston Globe dice album scioccante e meraviglioso allo stesso tempo, originalità tagliente, empatia e medesimazione nell'ascoltatore. DIY Mag 8, disco audace, coraggioso, che affronta brutte verità e squallide realtà, segna il passaggio da nome di culto a vero fenomeno. Clash Music, Mitski canta canzone di speranza, che potrebbero essere confuse come millennial misery, libertà totale di esprimere i propri sentimenti. La produzione del disco è come la propulsione di una cornetta lanciata da una scogliera, serve appunto riferimento a un'emotività collettiva, all'espressione di sentimenti in cui ci possiamo riconoscere. Generalmente i musicisti si ammantano di una certa mistica che li separano dall'ascoltatore, invece Puberty 2 è totalmente empatico. Per Tiny Mixtape conferma i temi di amore, solitudine, tradimento, fame di vita e le afflizioni che provengono sia dalla tristezza che dalla felicità. Questo bellissimo, questo crescendo di Only in Dreams dei Weezer, che ci fa da sottofondo. Canzoni composte argutamente, sagacemente ed eseguite con passione. Una delle artiste più compelling, dice Noripcord, ovvero convincenti, coinvolgenti, insomma trascinanti. Poi c'è, insomma, i voti più alti di Pretty Much Amazing, che va all'8.3. Poi The 405, 8.5, maturità nei testi e nei suoni. E poi Pitchfork, 8.5, non dimentichiamo. Si fa riferimento ai gruppi musicali degli anni 60 e a dei ritornelli appunto di girl group dell'epoca, e io dico, perché l'ho letto, che può essere la sintesi dell'influenza musicale dei genitori, ovvero la collezione di dischi folk della Smithsonian Folkways Collection del padre, ovvero patrimonio folk americano da Pete Seeger a Woody Guthrie, e invece uniti ai dischi pop anni 70 della madre, che hanno creato appunto questo mix di suoni. Poi Spin 9, che fa tutto un discorso su quanto Mitski possa essere considerata emo. E stiamo arrivando alla fine di questa cavalcata su Puberty 2, e lo facciamo con i pezzi che chiudono l'album. L'abbiamo uniti insieme anche perché il pezzo di chiusura è meno di 2 minuti. Si tratta di Crack Baby, e A Burning Hill. Questo pezzo, Crack Baby, si fa questo paragone tra il desiderio di essere felici, insomma, con una dipendenza dalla droga. Appunto, riguardo ai pezzi chiusuri del disco, ci sono un paio di recensioni che ne parlano, e tra l'altro quelle che hanno dato il voto più alto, tipo Consequence of Sound, che gli ha dato 9.1, dice che l'unico difetto è che i due pezzi finali siano insoddisfacenti perché meno drammatici di tutti quelli che li hanno preceduti, ma forse, poi quindi un po' si contraddice o si riprende, ci pensa sul recensore, forse dopo le sfiancanti montagne russe emotive della pubertà descritte prima, ci può essere una bellezza confortante invece nei momenti più introspettivi, su cui aleggiano insieme, accanto l'una all'altra, sia la felicità che la tristezza. Poi appunto il voto più alto dei V-Club dice: Burmaker Creek aveva catturato perfettamente l'incasinamento della tarda adolescenza, quando di colpo puoi fare quello che vuoi e quindi spesso delle pessime scelte, mentre il titolo del suo seguito, Puberty 2, suggerisce un nuovo periodo di crescita ugualmente doloroso, in cui i pesi dell'età adulta diventano reale. Anche questo pezzo mi sembra molto St. Vincent, un po' Prince Johnny, un po' Year of the Tiger, un po' questa ballata che anche St. Vincent è molto brava a fare. E comunque tutti non mancano di sottolineare la maturità di questo album rispetto al precedente, quindi un aumento di self-confidence, di sicurezza nei propri mezzi, di talento nella composizione, però aleggia il pensiero che il processo di crescita non sia assolutamente terminato. Cioè, hai fatto un passo così grande tra un album e un altro, da un anno a un altro. Pensiamo e speriamo che il processo di crescita e di evoluzione di quest'artista sia ancora lungo. E questo è il pezzo di chiusura, The Burning Hill, appunto la ricerca, la fine, un po' della rassegnazione. Penso di essere finalmente esausta, non ne posso più di cercare quello che non posso avere, cercherò di accontentarmi di cose più piccole, di amare cose più piccole, quindi trovare conforto nell'indossare una semplice camicia bianca pulita, anche se ci si sente come una foresta che va a fuoco. Insomma, un ottimo lavoro fatto a quattro mani con il produttore Patrick Highland, che, come dice Davy Club, mette la voce di Mitski in primo piano sopra i pezzi punk rock, mentre le dà più spazio per muoversi nello spazio negativo delle ballate. consiglio anche di andare a vedere il terrificante video di Happy, anche questo retro, un'estetica molto alla In the Mood for Love. È sempre questa differenza culturale tra lui e lei. Questa è Mitski, 24 febbraio al Covo Club, unica data in Italia. Ascoltate questo disco, Puberty 2. Ciao da Claudia Mighty Mouse.